problemi, capito? Non ci stanno problemi. Va bene, ciao Gianni di Ramitti, alle prossimine ci riascoltiamo. Prova a cambiare il microfono, Massimiliano, adesso noto differenza. E con quello della tele c'è la differenza, come che c'è? E la stessa differenza che c'ho io tra questo della game e quello della CTE. È più mascolo la modulazione. E si conferma quello lì, sì, e si sente il cambiamento quando lo metti. Massimiliano, perso il microfono. Dai, vai intanto tu, ok, riprendi, dai. Sto facendo la bassa la tele. Audio. Ehi, chi è? Adesso come sto uscendo? Scommetto meglio di prima. E adesso sì, già arrivato a casa. Negativo, ho aggiunto un pezzettino di carta forno fra le due lamelle di stagnola. Alleluia, tu vai, c'ho 10 ore di lavoro oggi, non mi fa scifolare il gabbo. Che già basta le cassatrici durante il giorno, dai. Complimenti, comunque esci benissimo con la carta storia. Metti di cucchi alluminio e esci a posto, dai. Ah, ti due risate. Ah? Ti due risate, che stiamo scherzando. Sì, ho capito poco fa che stavi scherzando, ma io non prendo per queste cose, ci sarebbe altro. Ma figurati, sono qua per divertirmi e ascoltare anche le cazzate, ma qualcuno ci sta credendo davvero, capito? Non vorrei che magari provassi a farlo anche lui e brucia tanto quel poveraccio. Positivo, dai, Anto. Dai, io c'era Romario c'era. Romario era seduto di fronte a me a capotavola, quel ragazzo con i capelli rasati, e Romario, quello quando ho fatto vedere quell'antenna tipo la che ci ha accorto, no? E siccome c'era Andrea Brizzi, questa antenna, ha detto guarda, questa qua è un'antenna di sottomarino, sì, no, ma dove si trovano? Ha detto devi andare alla NATO lì a Santo Stefano, alla Maddalena, ha detto e buscarla da qualche sottomarino, e già sono le antenne dei sottomarini. E questo ci ha creduto, capito? Ci ha creduto, poi ha telefonato, se aveva un suo cugino, non so, lì alla Maddalena, se poteva trovargli questa antenna del sottomarino. Ha telefonato davanti a noi. Ciao Gladie. Ehi, Gigi, che sono al telefono con un amico. Vai. Comunque, Anto, se vuoi qualcuno, io ho qualche nome nativo, qualche indirizzo ce l'ho e anche qualche numero di telefono di questi che costruiscono antenne, li fanno artigianali, sia per macchina, per camion, per casa, ce li ho io sui continenti, questi che fanno, costruiscono veramente, le fanno veramente le antenne, non scherzando, le costruiscono veramente, le fanno artigianali. Ma guarda che realmente se vai su internet è pieno di progetti fatti con cose assurde, adesso non sto scherzando, cioè con materiale anche di recupero alcune antenne, e che vanno sapute fare. Adesso sicuramente Claudio non mi sta sentendo, eh? Ti sto ascoltando sempre io, dove sto baraccando modulando io, lui le fa le antenne, ma cosa sono le 130 euro per la macchina, per la, però sono delle antenne che te le garantite. Capito, io ce l'ho in camion, ne ho più di una di antenne, io ho tutte antenne costose, capito, antenne di... Guarda, io ne ho fatta arrivare da poco una, forse tu non l'hai mai vista, comunque ce l'ha, le ho fatte arrivare 5, ognuna sono fatte artigianali, sono queste qua, sono 5.000. Sono le 5.000, sono grosse, quelle che ho detto che erano tenute sottomarine, sono quanto cose sono un fondo di bottiglia, una bottiglia bottiglia quasi di boccione, quasi quanto un boccione sono, la carica di sotto, ed è fatta in argento, quelle sono delle antenne micidiali, però costano 145 euro, capito? Sono fatte una a una a mano artigianale, non fatte, capito? Costruite a mano. Se ti durano una vita già vanno bene, 140 euro già si possono spendere. Oh Cla, ti stavo dicendo, ma si vedono due cose, cioè due grand plane e poi un filo tirato. Due grand plane, qui sono fare un'antenna guida con i radiali. Un'antenna con i radiali? Niente, quella che c'è sull'autostrada, quella è un'antenna 5 ottavi VHF e UHF. Poi dall'altra parte c'è la Mantova, poi c'è la direttiva 9 elementi, in punta la direttiva 9 elementi c'è un'altra antenna piccola VHF e UHF che mi serve per i ricevitori. No, quella ho visto adesso. Quella ho visto, oi. Mica ce n'è antenne sopra, no? Non servirà molto perché non c'è bisogno di tirarle su alle piccole. Basta un'ora e mezzo io di giro, poi mi dice c'è la modulazione, va bene, sempre così. Ma è Massimiliano Bulldozer, noi ti sei seduto a mangiare e ci hai buttato il microfono al piatto. Fatto proprio così, dai, noi stavamo aspettando che provasse il microfono e invece niente da fare. Allora, vi assicuro che sia sceso in macchina, ma lui la macchina che c'era sotto, ma deve fare molta strada. Va bene. Non ce n'è antenne alto sotto il tetto, c'ho 5 discese di cavi, ce n'è 5 antenne, ma quelle più vistose sono quelle verticali. Le altre sono molto basse, tanto lavorano tutte a nord e quindi non ho problemi. Va bene, Falchetto. Oh, signori, dai, riprendo io le... Andiamo a fare la parte quotidiana, dai. Buona serata, ci sentiamo dopo se ci siete, cambi e... Vedi, Claudia, questo microfono gli fa una modulazione diversa e bella pure. Va bene anche gli altri, però questo gli fa una modulazione diversa, hai notato qua? Ah, l'ho notato sì, ma gliel'ho già detto stasera, non ci siamo ascoltati. Molto, molto bella, ciao Massimiliano Bulldozer, saluti a casa, buona cena e ci riascoltiamo domani. Solita ora, stesso canale, capo. Ciao, ciao a tutti, dai, ce la riascoltiamo, Bulldozer chiude le trasmissioni, cambio. Ehi, ciao Bulldozer, dai, buona carica, buon tutto, buon 144 anni fa, saluto da te, QRA familiare. Detto? Che? Pazzo. Guarda come ti sto arrivando, dai. Ma se sei a Usilo... sta arrivando abbastanza bene. Non hanno preso una pizza da bufala, dalla bufala. Ah, ti ha pagato, già stai arrivando bene. Come quando ti fermi, c'è Antonio Pompugno. Come quando ti fermi, o Antonio Bro. Attaccare il cavo della lampadina. A mettere moto e accelerare a vedere quanto amplifica. Ha fatto il sindaco di Proaghe e lo scoppio si è sentito all'aereo. Seguaccio che appaccare dai. Ciao Antonio Motopopo, buonasera e ben ascoltato. Buonasera a tutti, ben ascoltati anche a voi. Appacciato, ben ascoltato anche a te. Le dinamite si sarebbe affrontato con la lattina di chinotto. Ah, tu dice ciao per me, mi ha detto che devi andare a rubare, se no ti ha pigliato tutte le lattine di Coca-Cola. Usci domani la gatta di teso in terra. Se si una ciofra, Luca, non dovevi dire cosa ci mette a operare e brucia la radio. Oh, Gigino Luca, sono geloso di questo baracchino però, mi piace il bip che c'è Antonello Pompugno. Bisogna che lo facciamo mettere a quattro, No, non mi piace questo più bizzi a me. No, guarda, c'è un apparato che ce l'ha così e non lo adopero perché non mi piace quel doppio bizzi. Comunque un altro meno non è doppio bizzi, sono quattro, pronto. Guarda, un po' qui sono quattro, non sono due. Sono troppo, non mi piace così. È bello però, è quando stacchi nel 45 che fai capo. E di russo il pipì così, che va che nel tempo già lo sai, caro. Non ridere Antonio, cazzo, non ridere che ho visto la lettiera, Vede come siete. Dicevo che ma lì si quando non hai fatto il mio Gigi a Forchetto, no? Adesso sono scaricato, ho fatto bene stasera. Che l'ha detto quest'altro, io ridi fa che no, un po' più riesco se sta detti. Ecco altro cazzo. Ed è più serio, ma che te l'ha un bel serio, Di luce un cazzo, non è mai niente, io lo credo che è serio, ma vi te la sempre i fuochi tendi. Trento e Massimiliano ci passavano nero e tuo figlio ci passavano i piattini sotto sotto. Dove andate lo biscuito? Comunque è stata una bella manifestazione, dai. Oh, ma Gigino, dimmi notizie, io ho sentito il giovanino stasera, non gli ho detto niente, ma non avremo prima di fare agosto. Questa settimana è primo agosto, non intendi? Io prima o dopo la facciamo, adesso vediamo un po', dai. Io direi di farla dopo, cosa dici dopo? Tanto quando capita il 16 dopo Ferragosto, quei giorni lì, che cosa capita? Se siamo liberi, o ce la facciamo prima o ce la facciamo dopo Ferragosto, dipende. Ce la possiamo fare, dai, no? Poi non c'è problema, Claudia. Io direi dopo Ferragosto, capito? Dopo il 16. Cazzo, meglio dopo Ferragosto, siamo stanchi e non abbiamo voglia, Vedi tu, se consulti a Danilo per me non ci sono problemi, va bene anche quello che hai detto tu, capito? Ce ne scendiamo tutte, quando siamo 10, 15, insomma ricordo. Ce ne scendiamo tutti dal mezzo e facciamo festa a Molduria. Poi ci facciamo tutti il bagno col pisello fuori di notte, capito? Come faceva dottor Falchi il dentista, ha fatto 4 bagni, uno diverso dall'altro, solo che ha trovato l'acqua ghiacciata e si è mosciato il pisello del morto. No, io lo sai perché dovevo dopo il 16, perché io dopo il 16 sono in ferie, capito? Invece prima ci sto lavorando di duro, prima di Ferragosto, capito? Sino ai giorni prima di Ferragosto, invece dopo dal 15 di Ferragosto e in coso sono tutta in ferie quella settimana lì, allora sono più rilassato e più cosa, hai compreso Claudia? Ma poi pure il secondo lavagliato il sabato, facciamo di sabato, noi va sempre bene, che cosa da tutti. E anche se sto lavorando il sabato va sempre bene. Ah, ora ce ne frega, Gigi, ma la vita ho mollato tutto, Falchetto, ho finito alle 10 io, alle 10 e mezza ho già agiato, ma cosa te ne affrutti, non siamo oltre 80 anni, no? Ancora già possiamo manovrare l'apparecchio, non farò mettere la suona, Falchetto, la suona, l'ho detto Massimiliano, quella suona che ci aveva un tatuaggio nel braccio a forma di pene, no? Di uccellino, è andato dal medico a farsi una visita e l'ha detto il medico, ma suora, che cos'è quello, un tatuaggio? No, una voglia. Faccio un attimo il piacere che mangio una fetta di anguria fresca, riprendo subito, datemi il tempo che mangio una fetta di anguria fresca. Vedi, cosa ci vuole, ma no, io aspetto che sia mia figlia da lavoro alle 10 e poi no, mangio la frutta assieme a lì. Oia, oia, Falchetto, fra un po' di 20 aquilone, stai attento che da lì prendi il volo e tutti i tuppi ne cadono dalla trave. Vediamo dove è arrivato Antonio Rode. Antonio Rode! Che già sto aspettando la pizza qua a Monserretto. Buona, diceva spesso mia figlia, buona, sì, io ancora sono andato a mangiarla con mia figlia e tu si mangia molto bene, buona la pizza. Ok, Antonello Pomponio, riprende tra la bidi, sono rientrato. Certo, cosa stai facendo? Avete passaggi? Il vilello? No, Pompo, mi ha telefonato, la telefonata, dai. Mi è arrivata la telefonata, tutto qua, KK. Riprende la torre. Oh, sai come la prossima volta là, a Gianni di Chiaramonte gli faccio fare il lineare col pane secco e con la plastilina, vedrai. Oh cazzo, tu lo metti in difficoltà, vai, è un bravo ragazzo, mi dispiace a me, l'ho detto per quello che lo fa, perché crede a queste cose e poi rischia di bruciare il baracchino. Si possono fare i miniatura, tanto per fare prove tipo a carico fittizio, con le lattine, eccetera, però bisogna avere le misure giuste e quindi rispettare tutte le cose, capito? Per fare una prova si può anche fare. Io ho fatto un carico fittizio, non so se l'ho fatto o se l'ho buttato, boh, se ce l'ho da qualche parte dentro qualche armadio, proprio con una lattina di birra. Mi pare l'avevamo scogettato con un troppo poi, ma abitava via 22, girato me, con quel cavo tutto avvolto, fuori della lattina, le due polarità, pro caldo e pro freddo, con dentro il rame per fare da carico fittizio, ma eravamo usciti. Mappa che l'ha fatto così. Ma si vede che è un bravo ragazzo e comunque non gliel'avrei mai dato. E che mi ha chiamato nell'altro canale per dirgli se gli davo il progetto, che me lo pagava pure. Cosa mi hai detto io che sei cazzo una cosa allucinante? Te l'ho detto io, ci crede. Lui non si è neanche accorto, lo vedi tu, io me ne sono accorto dopo un segnale, quando ti ho visto che non era il tuo. E il segnale che ti ha dato lui, ha detto, ma Antonio di Montagna, però sono stato zitto, ma non tu puoi avere detto la lattina, ha detto no, cazzo, non va bene, questo ci crede, non ha il bar che ha preso tutte le lattine di birra, Gli ho chiesto anche che tipo di segnale voleva, che tipo di antenna voleva, se quella fatta con la carta stagnola o quella con la carta forno, perché quella con la carta forno c'era il segnale un attimino più morbido e la radio arrivava meglio. Ringraziato. E su una cieca come si antuia, per carità. Vabbè, dai. Comunque se mi capita, io prego Antonello, ci dobbiamo vedere a fare qualche dipolino, glielo faccio. A vedere se arriva meglio, glielo faccio puntare, però glielo devo andare io a piattaglio, non c'è niente da fare, perché se glielo punto verso Sassari io penso che migliori qualcosa, glielo faccio magari anziché un quarto d'ora, 5 ottavi e migliorerà sicuramente qualcosa, perché era una posizione molto balorda, giù nella valle di Chiaramonte, se avessi abitato sopra dove c'è il torrino dell'acqua, oioioi, allora già arrivava forte, sì. Ui, come sto? Sto tornando alla base, non ce l'andatemi. No, madre mia, che dunque, vediamo se posso fare anch'io vicino alla Brambina. Ogni andante si chiama Maglieggia e c'è qui un capo al microfono. Digi non volca! Ah, lui, Coca-Cola questa è. Questo è il progetto di grotte, così a te. E ma se vuole lattine di cose, di birra di mome, dire non riesco a meglio. Se con la birra tedesca, si può fare una bella antenna, si può costruire il letto. Con quelle lattine a 55. Va bene, dai, mi approfitto a salutarvi, dai. Fatemo 144, vado fatte, dai, Falchetto, chiude le trasmissioni che domani si trabacca. Ciao Claudio, ciao Grotte, ciao Gigino se mi sta ascoltando, ciao Antonello Pomponio, Falchetto, QRT da parte mia e tutto, ci aggiorniamo domani. Ciao! Tu prima di mettere in bici, ti dicevi, andate, ma avessi io, voglio andare a mungere. Ciao, camminando domani in patria. Poi come sto? Naturalmente che le fai a Lubuco, eh? Già ne volto io. Ne sono sentivo la mattina. Ed è mia. Se può arrivare a forte. Esce a vedere se ci sono Vulcano, Antonio Grotte si sta fuori, mi sa che ho gastato male la pizza. Gigi non Vulcano! di Dio, sei parato. Padre di Dio, sei dormito vivo. Ui, come sto. Vai, Antonio Brode, fai rientrare Antonello molto poco. Di Roger, comunque ben sentito, ben ascoltato, Marchetto, ci sentiamo domani alle prossime, buon 144. Avanti, buon pugno. Ciao Fiaschetto, ci sentiamo dopo, stato da un paio d'ore Marchetto che dorme, poi si rialza come coso. Mi sembra quello che fa il coso, ma che fa la parte del moto e si rialza da solo ogni tanto. Perché dorme due ore mi fa Marchetto, ti credo, ma molto. Conviene chiamarlo Guffo, Guffo o Civetta? No, no, no, sempre Falchetto sono. Importante non diventare Cricchetto, Cricchetto. No, mi Gigi da Sicilia, dove? Sto mangiando la guglia, Falchetto. Ma te l'hai detto la Cricchetto? Te l'hai detto la saluta che ti propagazio? Ehi, attento Cricchetto. Oh Claudio, dica. Penso che diventa grande, scusa, non sarà più Falchetto. Oh, fa un po' diventare quella solitaria lui. Capito, lo facciamo diventare acqua, perché noi siamo poiana, fa un po' diventare quella solitaria. O quella reale, le metto, glielo cambio, Falchetti, metto quella reale. Dalla zona del, come si chiama quella, dei Charlie Charlie. E poi ti iscriviamo subito, visto che sei vicino all'ippodromo, comandante dei cavalli puro sangue. Vabbè, sempre Falchetto rimango comunque. Piccolo, grande. Va bene, dai. Fatevela buona, fra un paio d'ore io sono sempre con gli occhi aperti, eh. Oh, lo pensiamo di Gianni Dinamite, hanno firmato oggi. Vicino a Marti, c'è il Carabinieri, ha detto buongiorno, patente libretto, Leonardo, la patente libretto, hai tolto che sei tre cinghie, fruiti a poscia tutta. Va bene, dai, più dopo si coincide, dai, e mi posso dire di sopra, dai. Noi ti ho parlato in due, tutti e due mischiati. Ah, più dopo ragazzo, dai. Ciao, Anto, ciao, ci sentiamo domani, dai. A proposito, dopo me ne devo bere un goccettino di quella fave cinese, così dormo tranquillo e sereno. D'accordo, ciao giovedì, ciao, ci vediamo domani. Ciao a tutta la rotella, vai. A domani, Falchetto, con RT, ciao, ciao. Facciamo Falchetto, dai. Tutto a domani. Ciao, ciao, ciao, ciao, Gigi. Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. Ok, ciao. Anto, non si rompere la TV della birra, mi dicevi, a che volante non c'è anni. Sarà in una gamba, ragazzo, progettare 60enne, lui, ma calendario. Va bene, dai. Già va bene che va bene. Ciao di nuovo a tutta la ruota. Alle prossime, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Antonio Bro, alzo anche il cartone, ti stai mangiando. Buono, eh. Eh sì, seduto la marciapiede. Sono negativo, sono nel, come si dice, nel posto del morto, lato passeggero. Ecco, nel posto del combattimento, eh. Non fa pure tu, mette la giola, ti fai i tatuaggi e poi dici che ti fanno le voglie. Io parlate però, dici un vulcano, stai mangiando l'anguria, beh, e poi, cosa è successo? È un vulcanino che ha dormito, eh. Leggio. No, ho mangiato l'anguria, ma gioco male. Stavo meglio qui, cazzo, sto soffiando. Sono andato a mangiare una fetta, l'ho mangiata tutta. Tutta la gatta mi ha mangiato, mezza zittina mi ha mangiato, mi ha e sono scoppiato. Grazie a Dio. No, l'anguria di notte, no, io preferisco una fettina, ma no, l'anguria di notte sì, la posso assaggiare, ma una fettina. Beh, di notte è pesante l'anguria. Oh. Non è cosa per me, no, poi ho preso già la pastiglia, la cortisone. Finalmente sono riuscito a farmi la cura oggi. Per questo cacchio di braccio, sono per gli altri che non viene bene a dirlo. Stamattina ho provato a rotto sono fatto fare la ricetta e mi ha dato queste pastiglie Metrol, mi pare si chiama, sono due frutti, infatti ne prendo metà a pranzo, metà a cena. Va bene, dai, Antonello Motocoppa, riprendi e facci sognare sempre, stai attento che Grosse ti sta guardando, non buttare le lattine della birra. Quella grossa, mi sono fatto portare il bimbuccio con 31 e usavo la magnetica dentro l'ospedale proprio, con il bimbuccio con 31, ma arrivavo tutti in posto, arrivavo anche per l'ottobre se avevi due. Ma io non pensavo al corso, mi sembra, ho sbagliato, è stata di vecchio lì, quelle strettine, quella viuta, una viuta del corso, ma pensavo lì un periodo, mi sembra. Sì, è registrato. Quebec. Sì, ho abitato lì. Veramente prima di essere lì abitavo in qui dove sono lì adesso. Poi ancora prima, già lo San Claudio, abitavo in via Vizzetto. E da lì c'è Sparapo già, lì c'era la bella la zona. Facevamo con Claudio, eravamo in due e facevamo il muro di Berlino, anche lo facevamo a Grogo, non riuscivo a parlare tra loro. Figurati, io usavo la mia 27 L. Avanti, beh, che vuole entrare, buonasera, chi è? Sud'Italia, poi sembrava un aereo che non ricordo. Avanti l'amico, chi siede Sud'Italia? Ah, chi sa, se ne cosa cazzo. No, c'era roba di propagazione perché era sceso al fuoco. Non era tanto alta, era bassa come segnale. Queste sono le 2 watt, sono con 10. Ecco. 50. Poi tanto con la l'antenna abbassata, la questa abbiamo 27 L 1 e 1. Se sollevo il palo di 1,5 m, boh, ciao e buonanotte. Vedi che non sta fischiando. 50 watt e torni tutti. Se facciamo un altro impianto che vado da QTH piccolino, che sta facendo effetto quella guria. Se fa, sta pure, c'è un'altra pizza. ci arrivo da casa senz'altro. E abita lì vicino lui? Abita in mezzo tra me e Falchetto. Ma ne ha due postazioni, capito? Lascia bene tutte due parti, non ci sono problemi. Attenzione Gigino Vulcano, dimmi se posso fare qualcosa per te che sto venendo oscuro la bambino. Se non cammini andasse cagato sul abito. Gigino si stava facendo la cacca addosso. Caro amico mio, come sto? Grazie a Dio, si sta mangiando la guria. Oh yeah. Ha lasciato tutta la volta a pisciare nel cagarino. Ma gli dice uno stomaco di ferro. Domenica mattina abbiamo mangiato mezza pezza di goglio, di lardo. Ah, ma il lardo è vino buono. Il collega stava bevendo birra, poi è arrivato qui un cento. E stava becca una pezza di ghiaccio e ci mette la maniamo tutta. Siamo vicini noi due, quindi che ci rende più importante a noi? Marco è stato a quella ragione, ci riusciva quando veniva in macchina, finalmente. Ma tanto io ho detto che vi ha chiamato, finalmente. Ma scendendo state, che tanto sto scendendo, non mi sono accorto che c'era l'UTL22 con 800 watt, che c'è portante, non la sentivo più, sto scendendo, ti ho detto, mi ha trovato il podio, ma raggioso, e gli ha scendere la radio, un fiago di fumo. Sì, già me lo ricordo, l'avevo fatto a me riparare, ovviamente, avevo cambiato il trasformatore, l'integrato audio e il finale l'avevo cambiato. E poi me lo ricordo, ma io volte l'ho visto da poco, io adesso qualche giorno lì in Piazza d'Italia, io stavo a una parte intesa, ho tirato lo stipendio e l'ho visto. Ti mando tu un abbasciato, ma vabbè, sempre guglione c'è di più, e ammetta di mai da una radio, tuttora, cazzo c'è 20 anni, ma non ti vuoi che ti la giù la radio, mi dici da culo. Adesso le abbiamo dato leggermente un po'. Sì, mi sembra che è cazzina, però, dai. Chiaro già. Non faccio proprio vedere per niente, c'ho due antenne io, uso uno, uso l'altra, non ho nessun problema. Ti posso attenuare come funzio. Non me lo scondo lo smitter, no. Non posso inchiodare. Niente, sono... guarda, diciamo un po' in stand-by, mi ascolto volentieri, se mai qualche passaggio lo faccio, ma non più di tanto. Poi dove mangio lo faccio anche presto, prepararmi la roba, se non sia la roba, le magliette, non è la lavoro. Faccio poche ore, però devo fare, devo stare presto. Mancare, non posso mancare, sono scarso, come tu ben sai, là. E niente, rilancio il mic a Luigi e poi farà girare lui. Vai Luigi. Luca Rema, si è rientrato nel comune, lei lavora lì al comune. Via, via, via. Dico, ma per 3 mesi o 6 mesi? 2 mesi. Via. Vabbè, 6 mesi all'anno sono. 2 mesi. Positivo. Sì, vabbè, almeno che ti fai qualcosa, dai. Qualcosa per te. È meglio che riesci a fare qualche cosetta, almeno c'è qualche soldino per te, dai, che ti puoi fare comprare qualcosa e qualcosa di tuo, dai. Andrà bene, Lucarie, dai. Andrà bene. Chi è rimasto ancora rotta? Con pugno, mi sembra. Con pugno ci sei ancora. Sì, che ci sogno, sono qua. Senti, guarda, io mi trattengo fino alle 10:30 e faccio compagnia e poi mi sa che mi ci colico pure io e domani mattina me l'alzo presto. Stamattina mi sono alzato alle 6, sono un orario giusto, dai, ero sveglio da prima, però me sono alzato alle 6. Domani mattina me ne alzo un po' prima, vado a Olbia. Domani sono da Cagliari questi giorni, no? Meglio così. Vado a Olbia domani, scarico tutta Olbia e torno indietro a Bortone. Faccio un bel giretto, dai, più corto domani. Vi portate in cartaceo il stipendio? Sì, tanto di questa non c'è avvenuta. Ho lontano un vicino che preghi dello stipendio. Tanto vale quel che ha vicino. Sì, siamo qui, via. Oh, già andrà bene. Avanti Claudio. Gatto di positivo. Ciao Marchetto, ci aggiorniamo domani, dai. Non ci stanno problemi, ci aggiorniamo domani e ci facciamo qualche commissione insieme. Buonanotte, sogni loro. Vai a Gigi, ce ne 10:30, poi chiudo anch'io domani. Dobbiamo stare tutti presto per andare a lavorare e quindi bisogna mantenere l'orario. Poi sono fuori la mia figlia da lavoro, finito alle 10 e quindi faccio un po' compagnia a loro dall'altra parte e poi ci andiamo. Speriamo che domani ci sia bel tempo. Adesso sto arrivando nella zona di Ulvi, sono un freddo romanzano il DJ. Stamattina ci avevo una felpetta leggera, poi ho visto un venticello aretico che mi stava pizzicchiando le orecchie. Ma gli ha messo acqua a me, non l'ho guardata, non l'ho vista io prima la presa del previsore perché ero qua in aeroradio. Però ho sentito che dice che domani fa brutto tempo e c'è acqua domani, piove domani. No, non me lo dire, no, cazzo, c'è uno scavo aperto. Non me lo dire, mamma mia, speriamo che non piova davvero, se non mi incasino tutto e tocca rinviare, magari mi ci tocca lavorare sabato mattina per forza per poter mettere a posto il tutto. Speriamo che non, come mattina non facciamo come primo impianto, vediamo se ce la facciamo a salvarci. Io qua perlomeno quando vado a notte stellato c'è sempre quel venticello fresco ancora della risacca di maestrale, però diciamo che già si sta bene. La magliettina ci vuole, ma io porto la magliettina, tutta la sera petto nuovo, ma io porto la magliettina perché mi stava un po' pizzicchiando la schiena. Aumentato la portante. Va bene, la portante è aumentata, allora ti dico Claudio, che sono le 10:25, non ci aspetto più le 10:30, dai, mi sono girato le palle. Andrà bene, questo ti stavo un po' coprendo adesso. Claudia, ti stavo un po' coprendo. Andrà bene. chi c'è in ascolto, così la portante può continuare a mettersi da sola. Io me vado e mi faccio la nanna, pochettino mi spengo la televisione e vado e mi curico. Buonanotte a tutti, tutto a domani, ciao. Vai, vai a quello, vai. Vai, vai. magari c'ha le cuffie in testa, capito? Le sciogliere nella Lecce, allora per quello che stiamo andando a portare.